Quel grido lacerante non può che appartenere alle sirene. Il loro canto, oltre a essere assordante, ha il potere di ipnotizzare chi lo ascolta troppo a lungo. Svelti, dovete trovare qualcosa con cui coprirvi le orecchie. Tenete a mente che il suono si propaga con difficoltà nei materiali con una composizione flessibile e irregolare, che assorbono l'energia sonora, rallentandola o bloccandola. A vostra disposizione nell'inventario ci sono una maglia di lana grezza, dei coni di metallo, delle biglie di vetro. Quale oggetto è più adatto per proteggervi dal canto delle sirene?